scadenza di questo vincolo non vendere le azioni era appunto attesa e scade a mezzanotte del 12, quindi dal 13, da domenica, i soci italiani possono vendere le azioni ad altri, c'è solo un diritto di prelazione degli altri soci, quindi prima finora potevano vendere solo tra di loro, ma già nel 2011 c'era stata una lunga, se non vogliamo chiamarla trattativa, un lungo confronto tra i soci italiani e Air France per vendere in anticipo, del resto per la loro volontà sarebbe stata sufficiente, la maggioranza, il 75% di Alitalia proprio Air France, e non si misero d'accordo sul prezzo, come quasi ogni trattativa accade su questo punto, e anche adesso il vero punto interrogativo riguarda il prezzo. Intanto Air France, che dissimula chiaramente le sue reali intenzioni, è molto interessata a conquistare il controllo dell'Alitalia e lo farebbe a condizioni per lei molto più vantaggiose, molto più convenienti rispetto a quello che avrebbe offerto nel marzo 2008 quando trattava col governo Prodi, ma poi Berlusconi, come hai ricordato, mise in campo l'accordata italiana insieme a Passera e tutto saltò. Air France non pagherebbe in denaro, pagherebbe con carta, cioè offrirebbe proprie azioni attraverso un aumento di capitale. I soci italiani otterrebbero, in base al concambio definito, azioni di Air France KLM, la holding che già controlla le compagnie Air France e KLM e avrebbe quindi sotto di sé anche l'Italia. Queste azioni quotate in borsa potrebbero essere monetizzate successivamente. Oggi Air France KLM come gruppo vale in borsa 2 miliardi 100 milioni, quindi il valore che può essere attribuito a una piccola Alitalia, che è circa un sesto, un settimo di quella che è Air France KLM, adesso a parte le considerazioni sulla redditività, che comunque sono negative per entrambi i gruppi, ma negative soprattutto per l'Alitalia, deve tener conto che se uno è più piccolo di un sesto, un settimo, di uno che vale 2 miliardi, è difficile poter spuntare una valutazione molto alta. Il problema è questo, perché i soci italiani che hanno messo 847 milioni di capitale loro nell'Alitalia, oggi in seguito alle perdite sanno che questo capitale, perdite accumulate in questi anni, tra pochi mesi sarà praticamente azzerato, quindi che vogliano vendere o no, tra pochi mesi l'Alitalia avrà questo problema. Chi mette altri soldi per far funzionare la compagnia? Questo è il vero interrogativo, che non credo che i soci italiani, almeno dalle intenzioni, vogliano mettere altro denaro, quindi anche per questo la questione è urgente, molto urgente.